Friuli nel mondo, 52esima trasmissione dedicata agli emigrati. Antologia di Villotte. Una fra le più belle villotte friulane è la Viarte, un'elegia alla primavera scritta da un sacerdote che fu definito il poeta delle rondini, Giovan Battista Gallerio. La musica è di uno dei più delicati autori del Friuli, Luigi Garzoni. Stupendi gli ultimi quattro versi della lirica, in cui il poeta immagina che anche la rondine avesse nostalgia del Friuli, se vi ha fatto ritorno. Dopo in ca che ti sospiri, che ti clami di lontan, benvignude Sisilute, benvignude anche che stan. Il bielmeso moretine, le tornat cui flor sin man, anche tu tu se stornade, benvignude anche che stan. Ma su vie morute biele, dimmi chiare tu, bessoline tant lontane, ce facevis tu laiù? Io scomet che tu tu vevi sempre in cur il mio friù, che stis verdi sculinutis, queste linde, queste puiù. Dopo il ca che ti sospiri, che ti clami dal lontan, benvignude Sisilute, benvignude anche che sta. Mio fiel meso, men divine, che tornate il prossimo, anche tutto se stornate. Dopo la soave, penetrante dolcezza della Viarte, un canto popolare, un inno al riposo del giorno festivo e alla possibilità che la mancanza di preoccupazioni e di fatiche offre di dedicarsi alla donna del cuore. Sempre sul tema dell'amore, un altro canto. L'ha composto Pietro Someda De Marco e l'ha musicato Giovanni Lenuzza. È un delicato canto in cui, con una felice trasposizione iniziale, la donna amata viene paragonata a una lucciola perché, come questa rischiara la notte, così quella illumina il cuore. Lusignute lizzerine, che tu vas cence su su, tu sameis a che ninine che mi sta sempre tal cur. Lusignute gaiarine, io par te diventi mio. Venmi d'onge, ven vicine, che io brami il tuo lusor. Lusignute cidinute, come te non de un par. Ven caiù la me frutute, venga fammi un po' di clar. Ven con me, che ti hai amate prima in modi fa l'amor. Ti darai une bussade, lusignute dal Signor. Lusignute, canto giocoso, un canto popolare che finge il dialogo fra due innamorati. Lui piuttosto intraprendente, mentre stringe le mani di lei, e lei guardinga ad invitare il giovane che tenga le mani a posto. Un canto che, pur affrontando un tema tutto ammicchi e sottintesi, ha accenti di grazia, specie nel sospiro finale del giovane, conquistato dal pudore della sua ragazza. C'è bielis maninis, maninis d'amor, che li sa fatis la mamettò. Va iù, va plan, sta ferculis mans, o i bambinute d'amor. Ed ecco un sorridente invito, con il tono di chi vorrebbe essere burbero ma non ci riesce perché è pieno di indulgente comprensione per i diritti della giovinezza, affinché le ragazze, che si sono attardate fuori di casa più del necessario, si ritirino in santa pace e vadano a letto, che è l'ora delle preghiere e del sonno. La semplice, fresca villotta è stata musicata da Ottavio Paroni su parole di Giuseppe Colodi. Laita chiase bambinutis, laita chiase calescur, non son oris di intardasi, non son oris di stafur, non sintisi in lontananze a suna l'ore di gnot, aie l'ore de preiere, aie l'ore di la sot. L'alternarsi di componimenti d'autore a canti anonimi ci porta di nuovo a una villotta popolare. Una villotta che è la risultante di due domande che non trovano risposta nelle quartine, ma che è facile prevedere sia una risposta affermativa. Nel brolo c'è un sentiero che conduce i giovani a far l'amore. E sul sentiero c'è una ragazza così bella che è impossibile non piaccia a molti. Isalchest il troide braide canusmene a fa l'amor. Se so vo che bambinute, che plasei satan di lor. Del sacerdote Giovanni Battista Candotti, ecco un famoso scherzetto a tre voci che imita il grido dello stagnino. Le ca che il puaram, calle ciz, ciz e padielis rotis, chialai cerobe, chialai, seso sars o noveso bet. Le ca, il puaram, il puaram, il puaram, il puaram. Calle ciz, calle ciz, calle ciz, calle ciz, impossibile che in un'antologia di villotte friulane a un certo punto non ne salti fuori una ispirata alla Carnia. E la Carnia è la povera terra che tutti sanno. Lo sa anche la madre della fanciulla che si è promessa sposa a uno di lassù, fra quei monti incantevoli a contemplarli, ma che si dura fatica a salire con la gerla sulle spalle, come in Carnia è usanza e necessità di sempre. Ed infine un colloquio fra due innamorati, mentre in cielo le stelle tremolano come palpebre umane. I due giovani si scambiano parole sottovoce, le accompagnano appena le foglie che si piegano lievi sotto il vento. Quanta purezza di sentimenti e di immagini in questi versi di uno dei maggiori poeti del nostro Friuli, Emilio Nardini. Due i musicisti di questa villotta, Adriano Blasic e Giuseppe Toso. Quand che in ciel cimin li stelis biel chiatasi ca besoi. Tu sot vos tu mi fevelis, io ti chiali fis tai voi. E ti scolti. Angeli sueis e marmuin talaiaru. Plan planchin, che non tu sveis za calduar quest mon tant brut. Plan planchin vaiu la lune che la gnot nus aveglat come mari sulla scune nizzulant un fi malat. Chiante il gial la lodunute zornin alt al torne di siare voi me biele frute. Plan planchin va là dormi. Un popolo senza canti sarebbe un popolo senza anima, ma non c'è gente al mondo che sin dalla più remota antichità non abbia trovato accanto alle parole che sono comunicazione d'un pensiero o d'un sentimento la modulazione musicale che ne sottolinea il carattere. Alla luce di questa verità non vi sarà stato difficile rintracciare ancora una volta, cari fratelli emigrati, il carattere spirituale del nostro Friuli. Parole e musiche di questo nuovo gruppo di villotte vi hanno confermato che il Friuli è una poetica terra. Angelis sue,